Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Tra i tanti argomenti in calendario per oggi, e sono davvero tanti, anzi uno lo anticiperei, perché è una pagina che la Stampa ha dedicato oggi alle Coppe dei Campioni italiane. Quella vinta ieri da Trento nel volley è la 100ª Coppa dei Campioni vinta da una società italiana, cominciando dal Milan di Rocco nel 63 a Wembley, e poi passando attraverso il calcio 12, il basket 13, il volley 18, il baseball addirittura 30, addirittura il calcio a 5 che ha vinto due Coppe Campioni, il football americano, la pallanuoto, l'hockey su pista, il folloni, sto vedendo, ma insomma c'è questa tabella interessante. Dal Milan a Trento, a Trento nel volley, 100 coppe campioni, che mi sembra comunque un numero affascinante. Dicevo che tra i tanti argomenti in calendario, io direi di cominciare da quello che riguarda i passaggi degli allenatori da una panchina all'altra, vietati in Italia nell'ambito della stessa stagione, leciti invece all'estero, dove, per citare due esempi recenti di questa stagione, Roy Hodgson fino a gennaio ha allenato il Liverpool e da inizio febbraio si è seduto sulla panchina del West Bromwich Albion, nella stessa Premier League dunque. E ancora più avanti, cioè 10 giorni fa, Magath, esonerato dallo Schalke, licenziato dallo Schalke il martedì, la domenica dopo ha allenato il Wolfsburg, sempre in Bundesliga. Hanno ragione loro o abbiamo ragione noi che invece questi passaggi non li consentiamo? Lo domando al presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Olivieri. Buongiorno Renzo. Buongiorno. O che tu dici? Chi c'ha ragione? Direi che c'ha ragione noi. Beh, sì. Noi siamo abituati a guardare sempre all'estero, così qualche volta sarà bene che guardino anche noi. No, ma le motivazioni sono tante. E noi abbiamo cercato di seguirli, perché abbiamo fatto un esperimento una decina d'anni fa. Di più, allenatori, 10-12 anni fa. Sei allenatori che si sono risieduti in panchina sono stati 6 fallimenti. E una ragione c'è, perché nel nostro ambiente un esonero è un fallimento, ma non è un fallimento all'esterno, è un fallimento dentro l'allenatore. E a recuperare la certezza del fallimento, perché per 15 giorni l'allenatore dice sì, non è colpa mia, non... e poi dopo il fallimento gli pesa addosso. Secondo me le condizioni psicologiche, mentali, per poter rilavorare subito per un'altra squadra non ci sono, ma anche uno con un grande carattere dice no, ora vi faccio vedere io, perché la voglia è quella, ti faccio vedere io, uno va fuori giri. Perché l'allenatore ha bisogno di essere misurato, ha bisogno di essere riflessivo, pacato. Se vuol dimostrare tutto e in pochi giorni sbaglia. Questo è un percorso. E poi un'altra cosa. Il calciatore può cambiare. Il pilota della Ferrari può cambiare. Forse problemi non ce ne sono. Il direttore tecnico a metà anno che dalla Ferrari passa alla McLaren mi sembrerebbe una cosa un pochino sconveniente, e secondo me facciamo bene noi, perché l'allenatore si porta dietro tante cose. No, io proprio non sono d'accordo, anche dal punto di vista sindacale poi, ma è l'ultimo dei pensieri. Sì. Il pensiero più importante è che secondo me dopo un esonero l'allenatore non è pronto per rilavorare su un'altra panchina. Potrebbe essere anche un problema, tu ne hai accennati tanti di ragioni, io penso anche a un aspetto strettamente professionale, cioè credo che dato che un allenatore più passa il tempo, più passa il calcio e più è sempre più manager, probabilmente occorre un lavoro di documentazione preventiva che tu non hai molto il tempo di farti cambiando cosa, anche se è vero che se lo deve fare chi invece subentra all'improvviso sulla panchina in una società in cui non c'era dopo un esonero. Sì, è una materia un po' scivolosina. È un po' scivolosa. Io, a me sembrerebbe questa una delle tra le cose giuste, via, che il nostro calcio sta facendo. Senti, facciamo così, Renzo, però, dato che, allora, mettiamolo da un'altra angolazione, è anche un problema di identità, io credo, perché è giusto che la tal società, insomma, sì, diciamo pure la tal tifoseria che si è affezionata al tal allenatore, se proprio quell'allenatore è stato esonerato, almeno non lo veda su una panchina concorrente, magari se lo trovi di fronte, perché magari lo ritiene bravo, perché si è affezionato, che okay. Però per analogia dovremmo vietarli anche tra i calciatori allora nella stessa stagione, perché sennò Matri, alla domenica tu Cagliaritano deliri e la domenica dopo ti fa gol a te del Cagliari. Hai ragione, ma io direi non è un discorso che riguarda il calciatore, ormai l'abitudine l'abbiamo fatta, mi dici, la potremmo fare anche per gli allenatori, questo è vero. Però l'allenatore è un po' il capo, è il direttore di fatto, c'è la proprietà, c'è il direttore dell'azienda che è l'allenatore, ci sono i lavoratori, è molto schematizzata la cosa. E cambiare il direttore d'azienda in corsa e mentre stiamo gareggiando passare da un team a un altro, a me sembrerebbe poco opportuno, ecco. Andremmo incontro, poi noi siamo il paese dei dubbi, delle cose, rimaniamo rigorosi, via, sì. Così è la strada migliore. Oh, rigorosi dal punto di vista del tesseramento, perché poi sa, l'aggettivo rigoroso applicato a questa materia, ma ovviamente questo... No, rigorosi sui principi. Sui no? principi e sulle regole, perché se no mi viene a domandarti subito, noi abbiamo esportato indubbiamente il modello di cambio l'allenatore all'estero, no? Perché oggi in Bundesliga, in Premier League, anche in Spagna ci sono molti più esoneri di quanto non ci fossero ancora in tempi recenti. Quello che ancora di Made in Italy non abbiamo esportato è il triangolo veloce, l'erda Papadopoulos l'erda, faccio per dire. Capito? Quindi quando sento l'aggettivo rigoroso... Mi sembra la cosa forse quella più sbagliata, ma dimostra di un ambiente che è surriscaldato. Sì. E questo ambiente non ci possiamo fare nulla noi. E cambio un giorno, cambio due giorni e via. Questa la ritengo una cosa sbagliata, anche umiliante secondo me. Direi che siamo d'accordo su questo. Senti, un'ultima cosa, perché ogni tanto ci si sente proprio per aggiornare questa tematica. Quest'anno gli esoneri hanno tardato molto rispetto alla prassi costante. Dopo un bel po' di giornate le panchine erano tutte quelle di partenza. Poi un po' alla volta è partita la slavina, adesso siamo a 11 su 20 e quindi direi che siamo tranquillamente nella media. Come mai questo supplemento di pazienza quest'anno dei presidenti? C'è stata più pazienza, è stata ravvisata la necessità. D'altra parte il lavoro di un allenatore si può fare, ha bisogno anche di tempo, io credo che la riflessione sia stata questa. Poi le nostre vecchie abitudini, le nostre grandi tensioni che ci sono portano alle zone, c'è poco da fare, noi siamo preparati. Dico sempre una battuta un po' vecchia, dal punto sindacale di vista sindacale ci fa anche gioco, perché certo, sono posti di lavoro che si aprono, però è sempre una cosa dura per l'allenatore, chi la vive e chi ne ha fatto esperienza lo sa. Non c'è dubbio che da questo punto di vista ci siano molti presidenti benemeriti in Italia e credo che voi no? riconoscenza gliene dobbiate da un punto di vista fantastico. Però vedere che per una volta il campionato italiano è arrivato alla giornata numero 11 fino all'esonero di Gasperini e Ballardini, è un bel record di responsabilità. C'era da trasecolare oggettivamente. Grazie Renzo Olivieri. Ciao, arrivederci a tutti. Buona giornata, lo lasciamo come concordato prima a una riunione per l'appunto dell'Associazione Italiana Allenatori, poi semmai su questo argomento torniamo dopo anche con i vostri interventi. Adesso sentiamo come va la viabilità. D'altra parte c'è un, per proseguire ancora brevemente sull'argomento di prima, è proprio un articolo ben preciso del regolamento, articolo 38, tesseramento dei tecnici. Questo regolamento del settore tecnico di Coverciano prevede appunto che un allenatore di serie, un allenatore professionista non possa tesserarsi o svolgere attività per più di una società nel corso della stessa stagione. Preclusione, tra l'altro, è interessante questo, che non vale per i preparatori atletici, i medici sociali e operatori sanitari ausiliari, leggo da questo articolo del regolamento. Prima Olivieri faceva accenno a un precedente di una decina o dozzina di anni fa, ho cercato di interromperlo dicendo che era anche qualcuno in più, insomma, morale. Parliamo della stagione 94-95, che fu la prima, tra l'altro, che assegnava i 3 punti a Vittoria, e quindi anche per quello quell'anno si pensò di introdurre qualche variante. Ci fu l'ultimo caso di un allenatore passato nel corso della stessa stagione su 2 panchine di Serie A, fu quello di Giuseppe Marchioro, detto Pippo. Pippo Marchioro, che fino alla 9ª giornata allenò la Reggiana, e fino al 6 novembre, dal 23 novembre fu assunto dal Genoa, dove rimase poi fino al 21 di marzo. Fu il primo e unico allenatore della storia, dunque, a giocare la stessa partita, nella stessa stagione, su 2 panchine diverse tra andata e ritorno, perché Genoa Reggiana 3-1, Marchioro allenava la Reggiana. Reggiana Genoa 0-1, allenava il Genoa. E va bene, questo era uno degli argomenti, tra l'altro ereditato dalla scorsa settimana, in calendario per oggi. Adesso c'è un ascoltatore, poi sentiamo, poi apriamo i successivi. Fausto ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire una cosa, io sono un giovane allenatore del settore giovanile, sì. Ma quello che mi dà un po' l'impressione è che sia per quanto quello che dice il presidente Olivieri, che anche comunque l'associazione degli allenatori, sia un po' una casta un po' troppo iperprotettiva. Anche perché io le spiego, io sono andato a fare dei corsi anche a Sportivia e via dicendo, e c'era un giovane allenatore spagnolo, un ragazzo che aveva 22 anni spagnolo, allenato persino la nazionale spagnola under 18, e lui aveva 21 anni, 22, cosa che qua in Italia, se non sei mica un passato almeno di grande giocatore o di giocatore, non potresti neanche fare, perché il patentino non te lo sogni qua in Italia, purtroppo è così. Invece lui aveva addirittura il patentino A, categoria UEFA e via dicendo, e in altre nazioni rilasciano a chi comunque ha delle competenze, cosa che qua in Italia invece è troppo una casta, troppo chiusa in quel senso. Questa è una cosa che si è detta spesso a proposito dell'accesso alla professione di allenatore. Ci sono regolamenti diversi tra i vari paesi e tra le varie, e sono frutto di tradizioni stratificate. Poi che sia più o meno giusto, sinceramente non sta a me dirlo. Peccato non avere più Olivieri in onda, l'altra parte l'abbiamo strappato da una riunione, non potevo pensare di appunto di bloccarlo per più tempo. Dunque, Prandelli, a proposito di Balotelli, sto guardando se abbiamo questa voce da ascoltare. No, per il momento no, la sentiremo più avanti, ma ha anticipato l'ANSA quello che Prandelli ha detto stamane. Temo che in certi casi i comportamenti fuori dal campo condizionino anche i giudizi di quel che fai in campo. O ti rendi conto che cose del genere realmente condizionano le tue prestazioni, o fai del male a te stesso. Mi sembra che l'abbia preso un po' di lontano. Poi è vero che ha concluso dicendo: è chiaro che ognuno è responsabile dei suoi comportamenti, e io in nazionale voglio giocatori responsabili. Questo mi sembra molto più chiaro, e mi sembra significhi che le porte della nazionale per Balotelli si stanno giustamente chiudendo sempre di più, perché a monte di valutazioni tecniche sul giocatore, che continuano a essere lusinghiere, anche se forse non più come un paio di stagioni fa, ci sono riserve comportamentali sempre più gravi, che fanno, insomma, che fanno pensare non tanto al diritto, ma al dovere di uno sbarramento nei confronti di un ragazzo che ha comportamenti sempre di assolutamente totalmente d'accordo su quello che diceva prima l'allenatore, il responsabile degli allenatori. È solo una questione di soldi, secondo me, e di casta, come del resto per i giornalisti. Cioè, perché uno deve avere un patentino per essere allenatore? Se io, presidente di una squadra di calcio, desidero far allenare la mia squadra da uno che ha fatto l'agricoltore fino all'altro ieri, cosa, non capisco perché non posso farlo. Come per esempio perché io non posso scrivere su un giornale non essendo iscritto all'albo dei giornalisti, quando la Costituzione dice che l'espressione è libera per tutti. È sempre il stesso discorso, casta, solo quello. Grazie. Grazie a lei, Dario. Il recordman di cambi panchina la stessa stagione è sempre Pippo Marchioro. Gaetano, non, sinceramente non saprei, sono un po' turbato dalla casta, dal concetto di casta, che è una cosa che in Italia esiste indubbiamente e che è un aspetto negativo della selezione. Però poi da una parte c'è il concetto di casta, dall'altro c'è un concetto di competenza, e mi sembra anche che vale per gli allenatori, vale per i giornalisti, vale per qualsiasi mestiere. Io trovo che oggi ci sia anche un problema diverso rispetto a quello che diceva l'ascoltatore, un problema opposto, cioè che è quello del dilettantismo allo sbaraglio, che credo che molti di noi potrebbero fare esempi in vari settori, forse in tutti, e con cognizione di causa. Si tratta di trovare un margine. Io in linea di massima credo che, dato che ho enorme rispetto per gli agricoltori vivendo in campagna, io credo che in linea di massima un agricoltore insomma sia la persona più indicata per occuparsi per l'appunto di colture, e non manderei mai un allenatore di serie A, B o C a occuparsi di viti o di frumento. Magari per analogia, insomma, fatta eccezione per i geni alla Leonardo da Vinci, che possono sempre essere in agguato per le nostre strade, ma insomma in linea di massima penserei anche che un agricoltore alla guida di una squadra di calcio potrebbe avere, se non altro, qualche piccolo problema iniziale di approccio. Un'altra statistica interessante: con il gol di Thiago Motta alla Slovenia siamo arrivati a 25 oriundi in gol con la nazionale. Questo è una classifica curiosa, perché interessante, perché insomma, 25 è un numero spropositato. Perché? Ma perché ci siamo dimenticati di quanti giocatori dell'epoca pre-guerra, insomma della prima epoca del calcio italiano, quindi i due titoli mondiali del 34 e del 38, e comunque quella generazione, di quanti fossero gli oriundi che giocavano in nazionale ed erano determinanti per quelle nazionali. Parlo di Orsi, 13 gol, parlo di Luisito Monti, che pur giocando centromediano e non passando praticamente mai la metà campo un gol lo segnò, di Bonatti, di De Maria, di Renato Cesarini, leggendario personaggio, di Guaita, e poi di Fedullo, di Andreolo, di Sallustro, per arrivare poi a una generazione successiva invece, quella degli anni 50, che anziché portare fortuna, insomma anziché guidare l'Italia, oriundi parlo sempre, ai successi dell'anteguerra, la condusse invece ai disastri dell'eliminazione, per esempio, dai mondiali del 58, l'unica volta in cui l'Italia non partecipò a un campionato del mondo, e nelle sfide decisive furono coinvolti, tra gli altri, giocatori di grande nome ma ormai al tramonto, come per esempio Pepe Schiaffino. Marco ha chiamato da Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io di solito condivido quello che lei dice, ma sugli allenatori che non possono tornare ad allenare nello stesso anno non condivido, perché le leggi non si devono fare pensando alla psicologia, allo stato d'animo di una singolo allenatore, perché sennò le leggi non si farebbero mai. Dipende dal singolo allenatore se uno poi ha delle crisi mistiche e si mette in panchina in un'altra squadra e piange per 90 minuti pensando all'esonero. Le leggi vengono fatte diversamente. Se dopo uno è instabile mentalmente o ha problemi psicologici, a lui non accettare il posto o il presidente a non prendere un personaggio del genere. ma pensare che una legge possa essere fatta semplicemente per tutelare la crisi sistemica di un mister mi sembra un po' strano. Marco, ma questa non è la mia tesi, questa è la tesi di Olivieri, eh? Sì, sì, però voglio dire, non mi sembra che una legge possa essere fatta, altrimenti non so, al detenuto non si dà più la libera uscita perché al limite si va a rubare. Adesso lascerei stare i detenuti, no? Perché oggi mi sembra che siate un po' immaginifici, cioè l'agricoltore che deve allenare, adesso il detenuto in libera uscita. Io resterei, se parliamo di allenatori, resterei agli allenatori. Questa è una norma che non ho fatto io, ma non ha fatto nemmeno Olivieri, intendiamoci. È una norma che esiste a proposito del tesseramento di tecnici ed è una norma del regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio che, ripeto, impedisce il passaggio, la libera circolazione, diciamo, da una panchina all'altra nel corso della stessa stagione. Olivieri ci ha spiegato perché. Io gli ho posto la questione perché il resto d'Europa su questo aspetto si comporta diversamente. Da qui la curiosità. Sono voci da Coverciano in arrivo, per esempio quella di Alberto Gilardino, a cui è stato comunicato da Prandelli stamane che non solo domani giocherà a Kiev contro in amichevole contro l'Ucraina, ma sarà anche per la prima volta capitano. Se avrò l'opportunità di avere la fascia sarà un grande onore, visto i capitani che sono stati in questi anni, e quando gioca Gigi, quando c'è stato Fabio Cannavaro, e per me è solo un onore ed è un bel regalo che la nazionale mi fa, indossare questa fascia. Beh, lo credo che sia comunque un'emozione. Gilardino non è anziano, non è nemmeno più di primo pelo, ma insomma una fascia al braccio da capitano della nazionale, poi oltretutto in un periodo in cui la suggestione dei 150 anni continua, no? Mi pare a funzionare, è comunque un'occasione di cui ci si ricorderà per tutta la vita, immagino. Armando scrive: la Pescara, mi permetta di eccepire, un agricoltore allenatore potrebbe essere un altro risolvere i problemi di alcuni manti erbosi dei nostri stadi. È un non allenatore, però un agricoltore che si occupasse appunto che facesse magari in senso un po' più estensivo il suo lavoro. Grazie Armando. Dunque, c'è un'altra voce, sì, è quella di Prandelli che vi avevo anticipato prima, che è arrivata nel frattempo, e parla, per l'appunto, si sofferma sull'ennesimo caso Balotelli. Sarà comunque il campo in questi due mesi a farmi capire se Mario è pronto e maturo per iniziare l'avventura con noi. Dipende tutto dal comportamento che avrà in campo, dall'atteggiamento e dalle prestazioni. Poi tutto il resto può essere un qualcosa in più che può sicuramente dar fastidio. Però io sono anche convinto che sono situazioni che si sono già ripetute nel passato con tanti altri giocatori. Poi trovi una partita, trovi il gol, trovi la consapevolezza di essere comunque stimato al di là del fatto di aver fatto una grande partita, e può cambiare radicalmente l'atteggiamento nei confronti delle persone. Ma questo mi pare che ogni tanto qualche guizzo in campo che avrebbe dovuto aiutarlo a cambiare, Balotelli l'abbia avuto in questi anni ormai, possiamo cominciare a dire, per quanto ne abbia 20 tuttora. La scintilla vera, soprattutto la scintilla che dura, non mi sembra che sia mai scattata, ed è lecito, doveroso secondo me cominciare a domandarsi a questo punto se scatterà mai. Sentirei un ascoltatore, Maurizio, chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo parlare a proposito della cosiddetta casta, anche se non è una casta. Comunque, io sono dubbioso più che altro sulla modalità di accesso al corso di allenatore, perché nessun ex giocatore è automaticamente allenatore, deve comunque fare un corso, anzi tre step, se non sbaglio, per arrivare ad allenare in Serie A. Ma quello che interessa è l'allenatore di base, perché io sono un istruttore di calcio, non ho il patentino se non mi ho fratturato il ginocchio all'età di 18 anni, e negli anni 70 non si ricostruivano le ginocchia come si ricostruiscono adesso, di conseguenza purtroppo non ho potuto giocare, ottenere punteggio per accedere al corso di allenatore, e questa è la diatriba. Secondo me i regolamenti dovrebbero essere rivisti in modo che chiunque abbia la possibilità di accedere al corso. Il corso poi attesterà se uno è in grado di allenare o meno, o di insegnare calcio o meno, così come si fa il corso per la patente di guida, così come si fanno tanti altri corsi per ottenere un patentino, per ottenere una licenza di quello che si vuole fare. Poi che i giocatori di Serie A abbiano la possibilità praticamente immediata di accedere al corso, è normale, hanno un'esperienza tecnica. Io non neanche lontanamente posso mettermi al pari di Demetrio Albertini o Alessandro Costa Curta, che erano i primi due in graduatoria quando io mi sono iscritto al corso di allenatore. Giustamente, io ero lontanissimo perché avevo 3 punti per il diploma di scuola superiore e altri 2 per aver giocato 2 anni in seconda categoria o in terza categoria prima che mi facessi male. Con questo voglio dire che comunque anche un giocatore con una grossa esperienza e con delle validità tecniche non vuol dire che poi possa essere un ottimo istruttore. Ma non c'è dubbio, perché io ad un Mario Balotelli mio figlio non lo metterò mai in mano. Beh, vabbè, questo lo credo bene, a un Mario Balotelli ventenne, così io temo nemmeno quarantenne, a questo punto comincio a temere, però insomma è ovvio. Stiamo parlando però di altra età, stiamo parlando di altre caratteristiche, non credo che se anche dovesse mettere la capoccia a partito, io non credo che Balotelli potrà mai diventare un allenatore, temo nemmeno un educatore, insomma. Questo credo di no, però ha 20 anni e quindi in genere insomma di allenatori alla Balotelli non ne ho presenti, quindi insomma è ovvio che poi la battuta d'effetto ci sta sempre, però insomma mi sembrava più serio il discorso rispetto alla battuta finale. Scala è un allenatore agricoltore, osserva Carlo da Cremona. Sì, in effetti Scala è un allenatore agricoltore, nel senso che lui sin da è nato in campagna e probabilmente lavorava, insomma, comunque dava una mano nei campi già ai tempi in cui giocava a calcio, e parliamo degli anni 60, e poi i suoi investimenti, i suoi guadagni sono stati investiti in terre che cura personalmente insieme ad altri componenti della famiglia. Come lo era Lidolm, aggiunge questo ascoltatore. Beh, Lidolm sì, ma Lidolm in una seconda fase, nel senso che Lidolm poi più avanti, molto più avanti di Scala, parlo di età, aveva poi investito in terra a sua volta. Vorrei ascoltare una conversazione che Nocerino ha rilasciato ai microfoni di un'intervista che Nocerino ha rilasciato ai microfoni di Sky, perché intanto Nocerino è uno, secondo me, dei centrocampisti nettamente più interessanti delle nuove leve, tra i più interessanti delle nuove leve, e poi perché mi pare abbia trovato il modo in questa chiacchierata di ricordare e di mostrarsi grato ad un suo ex allenatore a proposito di esoneri. Sentiamo Nocerino. Purtroppo sono stato tra virgolette etichettato come un incontrista, magari solo corsa, però sono contento che magari qualcuno si ricreda, perché poi a me piace giocare anche col pallone. E sono qui perché sicuramente lui mi ha messo in condizioni di esprimermi al massimo, quindi tanto merito va a lui, perché è un grandissimo allenatore, una persona che mi ha fatto crescere sia umanamente che tecnicamente, tatticamente. Quindi per me aver lavorato con lui è stato un valore aggiunto, perché poi alla fine se sono arrivato qui è per merito suo, perché giocando nel Palermo, facendo bene, in quel momento l'allenatore era lui e gli sarò grato. Un elogio postumo di Delio Rossi, credo gli, da parte di Nocerino, credo gli farà molto, molto piacere. Di Nocerino, tra l'altro, se insomma, gli ascoltatori più attenti, indefettibili direi, ricorderanno che la scorsa settimana ha parlato anche Gasperini, ricordando come proprio Nocerino insieme a Gastaldello e Mirante, se non ricordo, ha citato quei tre, fosse uno dei ragazzi più promettenti dei tempi in cui Nocerino, in cui Gasperini allenava le giovanili della Juventus, con eccellenti risultati e tra l'altro vittorie al torneo di Viareggio. Gianni ha chiamato la Parma, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno. Buongiorno per la pacatezza di tutto. Vorrei parlare di Scala un attimo, agricoltore. Io le ricordo il Parma di una volta, di Scala, Minotti, Apolloni, Pinchi, il vice del mister nostro della nazionale, Bucci, Osio. Era un agricoltore, vuol dire che aveva venduto qualcosa di differente, che non solo dare un calcio al pallone. Detto questo, l'argomento è l'altro. Io sono favorevole all'autorizzazione del patentino verso tutti quelli che trattenono il calcio, perché devono essere più specializzati, devono essere molto più specializzati. Io ho l'onore, l'amicizia, ho 63 anni, sono anche appassionato di ciclismo, un po' come Guidolin, e frequento la Lampo, sono amico di Saronni, Piovani, Bontempi, eccetera, e vedevo e vedo che sono molto più specializzati loro nella preparazione di quelle che sono le caratteristiche dell'individuo, nell'estrapolare di quelle che è la loro indole psicologica. E questo non lo vedo nel settore, specialmente nel settore giovanile del calcio. Vedo adesso, i presidenti associati, questi mi devono correggere se sbaglio, che assumono dei ragazzi laureati in scienze motorie, patentino, e lo mettono sul campo 22 anni, 23 anni, 24 anni, con dei bambini 12-13 anni, e non hanno ancora quella preparazione, direi da uomo, da genitore, perché il ragazzo va sì allenato, ma bisogna estrapolare da lui quel che è il meglio, sia allenatore, genitore, deve essere accompagnatore, non solo lo schema. Beh, dipende, e poi via dipende Gianni anche di che fascia di età si parla, no? Dipende dipende da chi si allena, cioè se si allenano i ragazzini. Io credo che questa materia qualche ripassino ogni tanto non guasti mai. Nei tempi passati ci aiutava ogni tanto Massimo Giacomini, presidente del settore giovanile scolastico. Potrebbe continuare ad aiutarci lui, intendiamoci, perché nonostante non lo sia più, la passione per il calcio giovanile non l'ha certamente smarrita. Magari ci faremo aiutare invece dal suo successore, che si chiama niente meno che Gianni Rivera, che ogni tanto qualche intervento anche qui lo ha già fatto. Dipende dalle fasce di età e dal poi ovvio che dipende anche dall'entusiasmo che ci si mette. E io credo che esistano degli allenatori e degli educatori che sono più indicati, che sono più bravi a fare un certo tipo di lavoro su certe e diverse fasce di età. Poi ci sono i fuoriclasse come Lidl, che erano formidabili sia con i ragazzini che con i veterani. Giuseppe scrive: ma se per avere il patentino bisogna aver giocato a calcio per raggiungere un punteggio alto, il signor Sacchi come l'ha ottenuto? Giuseppe, poi esistono anche le eccezioni. Adesso nel caso di Sacchi la storia è abbastanza nota, lui non l'ha mai negata. Lui allenava una squadra di dilettanti, però era buon amico di un personaggio molto ma molto influente del calcio di allora, e questo amico che a sua volta conosceva per bene l'uomo che organizzava, che aveva inventato e poi organizzato i supercorsi di Coverciano, lo ammise, no? Trovò il modo di ammetterlo ad un supercorso in cui questo giovane un po' strano, un po' estroso e con un passato calcistico sicuramente non all'altezza, si trovò a frequentare il supercorso insieme a fior di ex calciatori ed ex allenatori, che ovviamente lo sovrastavano da un punto di vista tecnico e di pratica, ma questo aveva la sua forza, la teoria, che poi avrebbe espresso in quell'altra maniera. Ma siamo sempre lì, cioè, c'è la casta in Italia, l'avete detto voi, no? E non uno solo, per cui se come si superano gli sbarramenti della casta? Cara raccomandazione, come è sempre stato in questo paese. Ogni tanto la raccomandazione è un fatto, anzi praticamente sempre è un, diciamo pure, un fatto negativo. Nel caso di Arrigo Sacchi fu invece qualcosa di molto positivo. La rubrica di Nicola Filippone, che cosa è accaduto in un 28 marzo? Sembra ieri. 28 marzo 1965, 26esima giornata di campionato. A San Siro va in scena il derby numero 66 tra il Milan di Lidl, primo in classifica, e l'Inter di Herrera, seconda. I nerazzurri si impongono per 5-2 in una delle stracittadine milanesi più emozionanti di sempre. Per l'Inter segnano Jair, Domenghini, Corso e due volte Mazzola, mentre i due gol del Milan li realizza Amarildo. I rossoneri giocano più di metà partita in 10 per l'espulsione di Benitez, autore di un fallo a gioco fermo su Suarez. Il successo nel derby risulterà decisivo per la rimonta della squadra di Herrera, che solo poche giornate prima era a 7 lunghezze dalla vetta. L'Inter conquisterà il suo nono scudetto con 3 punti più del Milan. Beh, insomma, a 5 giorni dal derby di Milano, Nicola Filippone non l'ha tirata fuori male questa, indubbiamente, no? Poi ci sarà mezza Milano che si è divertita questa Marcord, l'altra mezza Milano che insomma, mi immagino impegnata in esercizi di scongiuri. Comunque è vero quello che ha raccontato Nicola, che questo è stato uno dei derby storici, certamente per l'andamento, per il punteggio, perché 5-2 non è esattamente un punteggio normale da derby. Massimiliano, provincia di Lodi, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, volevo dire due cose. Una per quanto riguarda Olivieri, che è un allenatore che stimo molto, però non sono d'accordo assolutamente con lui sul fatto che non si possa allenare una squadra quando si viene esonerati, non si possa allenare un'altra squadra. Lascerebbe libero il posto a qualcun altro ad allenare, e lo stipendio che dovrebbe dare la squadra che l'ha esonerato lo risparmia e lo dà a qualcun altro. Un'altra cosa è, adesso Balotelli. Balotelli non è che adesso ci facciamo una flebo come l'altro, quello della Sampdoria, praticamente come Cassano, no? Adesso andremo avanti a sentire Balotelli che si comporta. Balotelli è un cattivo esempio, e se devo aiutare qualcuno aiuto qualche poverino, qualche duro che ha bisogno, non Balotelli, sinceramente. L'ascolto per radio, grazie. Perfettamente, perfettamente d'accordo con lei. Se parliamo di società, società nel senso di società civile, no? Se parliamo di individui, ci sono, c'è tanto ma tanto bene da fare in giro, lasciando perdere i Balotelli non c'è dubbio. Poi è ovvio che invece chi deve occuparsi della gestione per ragioni societarie, di occuparsi della gestione di questi soggetti, è ovvio che si preoccupi di provare a rimontare i meccanismi mentali di Balotelli, che forse insigni non sono mai stati, ma certamente qualche dissesto ulteriore devono averlo avuto negli ultimi tempi, se no non si spiegano tante sciocchezze concatenate e così ravvicinate, così sempre più frequenti tra l'altro. Benito ha chiamato da Ascoli, buongiorno. Buongiorno dottore, dica. Un piacere ascoltarla, ma oggi mi ha, come dire, istigato, sembra reporter, ha aperto una porta che molti non condividono, quella della casta, si sa, ed è palesemente chiara. La seconda è che si poteva prendere il patentino UEFA andando all'estero e poi rientrare in Italia, l'hanno chiusa perché poi si interrompeva un canale, quindi è lì il modo. Poi se uno cambia panchina o meno, ci va se c'ha il procuratore, altrimenti non ci vai, o sei di Serie A o sei di Serie B o sei Sacchi, perché Sacchi non ha fatto il giocatore, e come diceva lui, non esiste un cavallo che è diventato fantino. Esiste la bravura, ognuno la deve mettere, la può mettere. Il problema è che non si può far vedere la bravura, perché sta lì, come dire, contornata da altre persone che hanno altri interessi. Oggi lei, con questo programma, parlando degli allenatori, se riporta in studio vedrà che saltano i centralini, perché in molti di noi stanno ascoltando il fatto di parlare della Serie A, e comunque in un altro modo di parlare di calcio ci dà modo di confrontarci. Quello degli allenatori è comunque gestito da procuratori che portano lo sponsor se hai lo sponsor, cioè vuol dire 30, 40, 50, 60 mila euro. Beh, vabbè, benissimo. Cioè, queste poi sono, sì, per carità, non è che il fenomeno non esista. Questa è una degenerazione, o comunque lasciamo stare degenerazione, io la penso così, ma potrebbe invece essere semplicemente un'evoluzione. È stata una evoluzione successiva, quella del procuratore, quella dei circuiti, ma anche quando i procuratori non c'erano ancora, non creda che non esistessero le caste o che non esistessero gli sconti o le agevolazioni. Una l'ho raccontata prima, cercando, secondo me correttamente, visto che sono personaggi che non ci sono più, di non fare nomi, e però le casistiche sono infinite, se vogliamo metterci a ripercorrere la storia, a ripercorrere tante carriere, no? Ma poi senza dimenticare mai che la vita è fatta anche di occasioni, no? E non è detto che l'occasione debba sempre arrivare dal, che ne so, in questo caso dal supercorso, piuttosto che dal normale concorso. L'occasione magari arriva in condizioni più normali. Certo, sarebbe molto più bello vivere in una società in cui non ti occorre il colpo di fortuna o l'accadimento imprevedibile, ma le selezioni, ma non sto parlando di allenatori adesso, non sto parlando soltanto di quello, ma le selezioni invece sono davvero qualcosa di molto serio, sono anzi la cosa più seria per provare a vedere di alzare il livello di qualità e di competenza del mondo del lavoro, soprattutto quello ad altissimo livello. Marco ha chiamato dalla provincia di Forlì, buongiorno. Buongiorno Granzini. Dica. Niente, riguardo a Balotelli, io penso che Prandelli potrebbe tenerlo fuori dalla nazionale per almeno fino agli europei, per comunque dimostrare anche ai ragazzini giovani che crescono che puoi essere fenomeno quanto vuoi, che però se non hai un certo comportamento in nazionale non ci giochi. A grossi livelli non ci arrivi. Ma mi sembra, Marco, che sia esattamente quello che Prandelli sta facendo, no? Balotelli è stato a lungo infortunato prima, ma stavolta era pienamente disponibile. Prandelli lo ha lasciato a casa per libera scelta, come dire, comportamentale, per un provvedimento disciplinare, quindi l'ha già fatto. Però se lo facesse per un tempo di, io penso un anno, forse sono esagerato, ma per un anno, anche se si comportasse bene e ottenesse ottimi risultati, visto che comunque partite da solo ancora non ne ha mai vinte. No, va bene, ma perché un anno? Cioè, perché, cioè, non so, ho il display pieno di messaggi di gente che si accapiglia sulle due o le tre giornate di Ibrahimovic, no? Per un cosa, e adesso di colpo tra due o tre giornate saltiamo a un anno. Secondo me, se Balotelli va avanti così, quella nei suoi confronti è una squalifica a vita, nel senso che o impara o prova a far funzionare. Vi ricordate che Mourinho disse che aveva un neurone solo? Beh, insomma, io credo che Mourinho fosse stato preso in una botta di ottimismo l'altro anno quando parlò di un neurone, ma supponendo che abbia questo neurone, evidentemente è in un periodo in cui non è in particolare forma, no? Io credo che se Balotelli si dà una regolata e capisce che davvero adesso il tempo è finito, allora io trovo che una squalifica di un anno sarebbe francamente eccessiva. Sulla base di quello che sta accadendo, credo che quest'anno sarebbe invece ottimista, caro Marco, perché io non vedo come potrebbe rientrare se non cambia la capoccia, e la capoccia mi sembra sia difficilina da cambiare. Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio.